Una verità detta ad alta voce può fare più paura del silenzio. Iniziamo così per ascoltare Giulia Calabretta, che ci guiderà nelle pagine più attuali che mai del Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia. Oggi parliamo di un romanzo, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961 da Sciascia. È uno dei primi libri italiani a parlare apertamente di mafia, non come leggenda, non come folklore, ma come sistema di potere reale, radicato nella società e nella politica. È un romanzo che non urla, denuncia. Leonardo Sciascia nasce nel 1921 in un piccolo paese della Sicilia. Cresce in un contesto segnato dalla povertà, dalle disuguaglianze sociali e dalla presenza silenziosa ma costante della mafia. Questa realtà quotidiana influenzerà profondamente tutta la sua produzione letteraria. Dopo aver studiato all'istituto magistrale, Sciascia lavora per molti anni come insegnante. Proprio il contatto diretto con la vita delle persone comuni rafforza in lui l'idea che la letteratura debba servire a capire la realtà e a smascherare i meccanismi del potere. Nei suoi romanzi e saggi affronta temi come la giustizia, la verità, l'abuso di potere, l'ipocrisia delle istituzioni. La mafia, per lui, non è solo un'organizzazione criminale, ma una mentalità, un modo di pensare basato sul silenzio, sul favore personale e sulla paura. Negli anni 70 entra anche in politica, prima come consigliere comunale e poi come parlamentare. Questa esperienza rafforza il suo sguardo critico verso lo Stato e i suoi limiti, un tema centrale anche nel Giorno della Civetta. Sciascia osserva come spesso le verità scomode vengano fermate non dall'ignoranza, ma da interessi politici e convenienze. Leonardo Sciascia muore nel 1989, ma le sue opere continuano a parlare al presente. La sua scrittura è chiara, razionale ma è retorica, non cerca eroi ma mette in luce le contraddizioni della società. Proprio per questo Il giorno della civetta non è solo un romanzo storico, ma un testo ancora attuale, capace di farci riflettere sul nostro rapporto con la verità e il potere. La storia si apre in Sicilia, con un omicidio apparentemente semplice. Salvatore Calasverna, un piccolo imprenditore, viene ucciso alla fermata dell'autobus davanti a tutti. Tutti vedono, ma nessuno dei presenti parla. Le indagini vengono affidate al capitano Bellodi, un ufficiale originario di Parma, il quale capisce subito che dietro l'omicidio c'è la mafia. Ma durante le indagini si scontra con un muro compatto di omertà, silenzi, mezze verità. Bellodi riesce a costruire un'indagine solida, ma quando il caso arriva ai piani alti tutto si blocca, i colpevoli vengono rilasciati, l'inchiesta smontata, la verità insabbiata. Bellodi e la giustizia vennero trasferiti, mentre la mafia ne è uscita vincitrice ancora una volta. L'omicidio di Calasverna è il cuore simbolo del romanzo, avviene in pieno giorno, davanti a testimoni, eppure nei verbali ricorre sempre la stessa frase: «Non ho visto niente». Sciascia ci sta dicendo una cosa molto chiara. La mafia non vive nel buio, vive alla luce del sole. Ciò che la protegge non è l'invisibilità, ma il silenzio collettivo. L'omertà non è solo paura, è abitudine, rassegnazione, è una scelta sociale. Bellodi è un personaggio fondamentale, è onesto, razionale, ostinato, ma è anche un estraneo. Essendo del nord, vede ciò che per molti siciliani è diventato normale e non accetta l'idea che la mafia non esiste o che sia un'esagerazione. Bellodi rappresenta uno Stato che vorrebbe funzionare, ma che arriva impreparato, isolato, senza appoggi, senza sostegno. Non è un eroe vincente, è spesso sconfitto ed è proprio questo che lo rende credibile. Mentre il personaggio più inquietante del romanzo è Don Mariano, non è violento in modo plateale, è calmo. Usa le parole come armi, è intelligente, ironico, celebre il suo discorso sugli uomini, mezz'uomini, ominicchi. In questa classificazione c'è tutta la sua visione del mondo, il coraggio morale è raro. La maggioranza delle persone si accontenta di sopravvivere. Sciascia ci mostra come la mafia, pericolosa, non perché brutale, ma perché razionale, organizzata, profondamente inserita nella società. Alla fine del romanzo, Bellodi ha capito tutto, anche il lettore ha capito tutto, ma la verità non basta. Le pressioni politiche, i collegamenti con Roma, il potere istituzionale proteggono i colpevoli. L'inchiesta fallisce, non perché sia sbagliata, ma perché è scomoda. La verità esiste, ma viene resa inutile. Il giorno della civetta non è solo un romanzo sulla mafia, è un romanzo sul rapporto tra verità e potere. Sciascia ci costringe a una domanda scomoda. Sapere la verità è sufficiente se nessuno è disposto a difenderla? Il messaggio del romanzo è ancora estremamente attuale. Oggi la mafia non è scomparsa, ma ha cambiato forma. Non si manifesta sempre con la violenza visibile degli omicidi in strada, ma agisce in modo più silenzioso, entrando nell'economia, nella finanza, negli appalti pubblici e nelle relazioni politiche. Proprio come nel romanzo di Sciascia, il potere mafioso continua a prosperare grazie a complicità, silenzi e convenienze. Anche oggi, spesso, le indagini funzionano e la verità emerge, ma non sempre procede giustizia. I processi si allungano, le responsabilità si confondono e la verità rischia di diventare inefficace, quasi inutile. È lo stesso meccanismo che colpisce il capitano Bellodi. Non viene sconfitto perché ha torto, ma perché la sua verità è scomoda. Sciascia ci invita a riflettere su un problema che va oltre la mafia stessa, il rapporto tra verità e responsabilità collettiva. La mafia esiste dove qualcuno comanda e qualcun altro accetta di tacere. In questo senso, il romanzo parla anche di noi, oggi, del nostro ruolo come cittadini, della scelta tra indifferenza e impegno. Per questo, Il giorno della civetta non è solo un romanzo sulla Sicilia degli anni Sessanta, ma un testo che ci riguarda ancora, ci ricorda che conoscere la verità non basta, serve il coraggio di difenderla anche quando è scomoda.